questo. E mi sembra invece importante, invece molto importante ringraziarlo, e perché sono occasioni rare. E cercherò di essere abbondantemente entro i 7 minuti, anche perché noi dobbiamo lavorare attraverso la tecnologia e quindi lavoriamo anche per la sesta generazione, quella dei ventini, quelle che ascolteranno queste cose nel loro iPod o altro. E allora, il testo di Purini. Mi dispiace che vada via Renato Nicolini, che ha fatto secondo me uno degli interventi più belli, ma no, ecco, ci tenevo che sentissi una cosa sola, Renato. Allora, cominciamo. Il testo è importante di Purini dal mio punto di vista, non per la parola generazioni e per la classificazione di generazioni, ma perché parla di quello che lui chiama progetto culturale. La parola chiave non è generazione, la parola veramente importante è progetto culturale. E questo è il nodo interessante, il contributo più forte che lui fa ed è la sfida che ci lancia. Detto tra parentesi, facendo un piccolo discorso entro il mondo puriniano, è chiaro che lui ha due grandi fatti, il tema come tema di ricerca architettonica applicata e progettuale, e adesso emerge in tutta la sua forza quest'altra parola così importante, il progetto culturale. Io entro per un pelo all'interno del terzo gruppo, sembra scritta quasi per me questa frase. Il terzo progetto culturale è quello formulato dagli architetti che hanno oltrepassato da poco, stanno adesso oltrepassando i 50 anni. Sono io, Cior e qualche altro. E, diciamo, arrivando questa mattina pensavo, caspita, I got a dream, io ho un progetto culturale. Grazie Franco, ho un progetto culturale. Naturalmente avere un progetto culturale è cosa ben più complessa, ben più difficile di avere un tema come architetto, e questo Purini sotto sotto lo fa capire. Quindi avere un progetto culturale è una cosa di un certo peso, e questa occasione e questo testo ci pone davanti a questo fatto. Le generazioni è un fatto accessorio, ha ragione Carmen, è una struttura letteraria. La cosa importante è il progetto culturale. Allora, se io, I got a dream, e ho un progetto culturale, in 2 minuti, e il progetto culturale è abbastanza buonino, devo essere in grado di trasmetterlo. Allora, questo progetto culturale, che ha ovviamente sovrapposizioni con quelle di altri, sia con le generazioni precedenti, sia con quelle vicine, quindi ci si incontra su alcune cose e su alcune cose non ci si incontra, si basa su 5 fatti fondamentali. Che io vi riassumo in 5 parole chiave, ognuna di queste potrei usare il plurale magistatis o altre forme letterarie e retoriche, sperando di non usare un linguaggio troppo banale, ma devono essere di carattere di slogan. Allora, questi 5 lati del pentagono del mio progetto culturale sono questi. Il primo, sostanze crisi. Io credo, come molti altri, indipendentemente dalle generazioni, ma che coagulano attorno alla mia generazione, che il linguaggio non sia più il tema, il problema. Il problema sono le sostanze, o meglio, le crisi che ci sono davanti. Noi abbiamo lavorato in questi termini, per questo abbiamo rotto una serie di barriere e per questo abbiamo cambiato alcune coordinate. Coordinate molto pesanti anche da cambiare, perché alcuni dei nostri maestri hanno costruito fatti fondamentali proprio attraverso, per esempio, il concetto di linguaggio. Penso a Zeno. Quindi in questo il mio progetto culturale è molto diverso da questo e centra sul rapporto tra sostanza, tra nuove sostanze che si pongono, nuovi problemi e nuove crisi. Il secondo grande ambito di questo, diciamo, ideale pentagono è quello che io chiamo storia futura. Il fatto che la mia generazione alcuni della mia generazione, si sono rimisurati con la scrittura storica, perché il problema fondamentale, come diceva Purini e come hanno detto anche altri, è raccontare nuovamente, raccontare con una nuova prospettiva. Rimettere all'interno del circuito culturale una eredità imprescindibile. Il fatto che da giovanissimo abbia lavorato su Pagano e più tardi su Terragni e su altri personaggi di quegli anni è evidentemente fondamentale da questo punto di vista. Storia futura. Devo dire che io non vorrei avere la frase che giustamente Purini adopera ad un certo punto, quando dice che i suoi coetanei non si sono occupati della sua generazione, imputando questo principalmente a D'Alcona. Io rivendico il fatto che la mia terza generazione si sia occupata con continuità di una serie di personaggi della generazione immediatamente precedente. Io ho scritto dei libri potenziali su Purini, su Fuxas, su Anselmi e su Cellini. Chiunque sappia leggere sa leggere in questi articoli la struttura di un libro potenziale. Alcuni libri dopo questi articoli sono stati fatti e li conoscete, quelli su Eichmann e su Gehry, ma in realtà la struttura di questi saggi è la struttura di un libro in potenza. Quindi vorrei che questo sia ricordato, che io mi sono misurato con voi nell'area romana, evidentemente, principalmente perché è la mia area, diciamo, di appartenenza più forte, perché non faccio di mestiere il critico di architettura. Il terzo lato del pentagono si chiama Fulbright, Erasmus and Beyond. Che cosa vuol dire? Che la nostra generazione, questo è un aspetto di cui abbiamo già parlato nel precedente convegno, quello fatto in aula Fiorentino e di cui gli atti sono usciti nell'Erasmus, è una generazione che si è aperta fortemente, la mia di Pippo, adesso perché vedo Pippo che poi è molto grande, quindi si vede facilmente, ma non è soltanto lui, ci sono anche altri, e è una generazione che si è formata fortemente in un clima anche internazionale, andando all'estero, cercando cose nuove, e questo filone, questo aspetto di ricerca si è travasato non soltanto in un'apertura, ma anche in una ricerca costante di aggiornamento pubblicistico, di apertura agli altri. Non a caso, bisogna citarsi, scusatemi per farsi capire, non a caso il mio primo libro è il libro su un architetto americano, e non a caso la mia cura della collana Ex Zevi è rivolta in gran parte proprio in uno sforzo di internazionalizzazione. E qui voglio citare Renato Nicolini, perché con la storia non si scherza mai, e Renato indubbiamente è una delle persone che qui può dire di aver avuto un ruolo storico. Lui l'ha detto scherzando, ma noi lo sappiamo, e il fatto che sia ricordato da Pazienza, diciamo, non è uno scherzo, è quella, diciamo, quel piccolo giro che tu hai fatto l'ho trovato veramente meraviglioso. Ma la cosa più bella è che tu mi rubi le parole di bocca, nel senso che io pensavo, ahimè, di dovermi autocitare, perché io ho scritto un saggio nel 2001 che si chiama Nuove soggettività, per comprendere, tra le altre cose, come c'è un ribaltamento totale, come i nostri nuovi occhi si appuntano sul reale in maniera diversa, come le forze diverse, riaggregate, puntate sul reale, creano dei nuovi fuochi. Allora io pensavo, io pensavo di dovermi autocitare, invece questa parola l'hai detta tu, ma soprattutto l'hai detta, diciamo, facendo il lavoro che hai fatto negli anni 70, in cui avveniva esattamente questo a Roma, dei nuovi occhi, delle nuove soggettività creavano il reale. L'ultima parola chiave, evidentemente, è IT Revolution in Architecture, e cioè il fatto fortissimo che io credo che il mondo digitale sia una rivoluzione epocale che ristrutturi il pensiero degli architetti e ci faccia muovere oltre. Naturalmente tutto questo è fatto per la sesta generazione, quella che Francesco chiamerebbe quella dei ventini, e io credo che il nostro progetto culturale non è fatto per noi, non è fatto per i fratelli maggiori, è fatto per altri. Sarebbe piaciuto farvi vedere un filmato di 3 minuti, perché a Firenze c'è un'installazione che si chiama Terragni Futuro, è un'installazione fatta da 80 studenti della Sapienza che ragionano a partire da Terragni, ibridando Terragni con i temi della contemporaneità e vedendo come ci possa essere un futuro. Ma credo che sia meglio lasciarvi un po' in desiderio di vederlo, lo potete vedere facilmente, basta andando sul web. Allora,